Siamo in collegamento telefonico con Antonio Borrelli, curatore dell'appuntamento di AstraDoc, con due lavori, Luci della frontiera e Jesop Paz. Intanto, Antonio, ben ritrovato. Ciao, ben trovati a voi, diciamo, dopo un bel po' di tempo, sono contento, molto contento. Ci racconti un po' di questo nuovo appuntamento a AstraDoc? Sì, è un appuntamento quasi su finire la rassegna che è iniziata a novembre scorso, che è dedicato tutto a Napoli, con due film documentari su situazioni molto diverse, che però offrono poi insieme uno sguardo su quella che è l'attualità della situazione in città. Senti, li descriviamo un po' più nel dettaglio, partendo da Luci sulla frontiera. Sì, Luci sulla frontiera è un lavoro realizzato da una giornalista che è Ilaria Urbani, che in città scrive su Repubblica. Che segue un percorso già di diversi anni in cui lei ha raccontato, anche con un libro, le storie di alcuni sacerdoti di strada, che si impegnano quotidianamente nella lotta alla criminalità. E sono tutte storie, di frontiera, appunto, spesso periferiche, no? Si va dalla periferia orientale con San Giovanni fino ad arrivare, diciamo, a Pozzuoli, quindi l'altro lato della città. Ed è appunto un lavoro che vuole raccontare poi la quotidianità della vita diciamo, dei preti che scendono in campo e sono presenti nella lotta alla camorra e a tutti i fenomeni che ne conseguono. Mentre invece l'altro è Jesop Paz, è un lavoro di Andrea Canova, che è un documentarista vicentino che da molti anni risiede a Napoli e che ha voluto raccontare un po' la storia di un posto molto particolare che si trova in centro, in città, che è un ex monastero del 600 che è famoso purtroppo nel secolo scorso per essere diventato sede di un ospedale giudiziario, poi abbandonato a se stesso, un complesso immenso, diciamo enorme, che si trova nel cuore della città e che da qualche anno poi è stato riattivato e riutilizzato, da un collettivo di persone. Molti giovani, che l'hanno fatto rinascere con attività sociali, culturali, diciamo che in città ormai sono riconosciute ed apprezzate. Senti, ci racconti anche un po' dell'esperienza Stradoc? Sì, la nostra rassegna, diciamo, è al nono anno a Napoli, l'anno prossimo festeggiamo il decennale. Ed è diventato un bel punto di riferimento non solo in città, ma penso anche in tutta Italia, proponendo solo cinema documentario. Ogni anno facciamo oltre 6 mesi di serate, un appuntamento fisso ogni venerdì sera, e cerchiamo di raccontare la realtà di questo paese, e non solo, perché spesso poi ospitiamo anche film e registi stranieri, tutto attraverso la lente del cinema documentario. Quindi siamo focalizzati lì e in questi 9 anni devo dire che la gente ci ha appoggiato, ci ha riconosciuto, ormai si è formato un bacino di persone molto eterogenee che viene con piacere il venerdì al cinema a vedere film che la normale distribuzione raramente passa e poi soprattutto spesso ad incontrare chi realizza il cinema, chi lo fa. Quindi questa è una delle cose più apprezzate poi da parte della gente, il potersi confrontare con gli autori, i registi e tanti altri ospiti che intervengono. Com'è il caso della proiezione del 6 aprile? Sì, lì oltre a Ilaria e Andrea che verranno, avremo anche poi la presenza di Libera che verrà a dare una testimonianza dell'impegno nella lotta alla criminalità. Ci sarà anche poi un assessore comunale, Alessandra Clemente, assessore alle politiche giovanili, e ci saranno poi ovviamente i sacerdoti protagonisti del film, diciamo che siamo molto onorati di ospitare lì al cinema, di farli incontrare con il pubblico che lo frequenta. Senti, Senti, mi dicevi che si tratta dell'ultimo appuntamento della stagione, poi che nuove scadenze ci saranno? Allora, questo qui no, non è l'ultimo, in realtà diciamo, è uno scorcio finale. Noi abbiamo un programma che al momento è fino alla settimana prossima, al 13 aprile, Sì. e poi avremo 5 appuntamenti finali fino a metà maggio che stiamo definendo, con alcuni film diciamo, di festival internazionali che porteremo a Napoli, alcuni in esclusiva anche in Italia, però su questo ancora non abbiamo chiuso tutto, quindi è un attimo prematuro dirlo, però avremo un paio di cose molto interessanti che proporremo fino al 18 maggio. Ecco, a questo proposito, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web? Sì, noi abbiamo, a parte il sito dell'associazione che organizza Stradoc, che è Arcimovie, www.arcimovie.it, insieme poi a Federico II, Parallelo 41 Produzioni e Coinor. C'è una pagina Facebook, diciamo, molto attiva che è appunto Astradoc, Viaggio nel cinema del reale, diciamo che si trova facilmente, su cui ci sono tutte le informazioni e tutte le notizie. Antonio, io ti ringrazio, ricordiamo l'appuntamento per venerdì 6 aprile con i due lavori Luci sulla frontiera, Jesop Paz, due documentari alla presenza degli autori e dei protagonisti e un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille a voi, grazie mille, a presto.